Allora, ripeto, io vi ho mandato questo foglio, però Leonora, hai ricevuto questo? No. Ecco, questo. Ho scritto la mail sul foglio. Ah, perché non ricevi i miei messaggi? No, in realtà non ho controllato la spam, magari può essere. Dove l'hai scritto il tuo indirizzo? Non me lo ricordo proprio, forse non ce l'ho. Musicleo mail it. L'avevo scritto su un foglio con tutte le mail, però forse. Ma magari sai lo riscritto male, l'ho saltato, non lo so. Comunque adesso lo riporterò. Okay, e ti farò avere questo che è una riscrittura, insomma, della scaletta, del piano generale, insomma delle cose di cui stiamo parlando. Grazie. Come vi dicevo prima, più tardi io vado a parlare con quelli, con gli occupanti della Torre Galfa e gli propongo, solo che noi abbiamo. Le prossime lezioni sono previste per ma a me andrebbe bene anche la settimana prossima. Potremmo vederci una volta la settimana prossima, l'orario prevede, che avevamo formulato, prevede che ci vediamo 22, 23, 24, ma va bene quello, mentre sì. Non ti va bene la settimana prossima. Dipende. Quando ti andrebbe bene? Mercoledì meglio. Per me è possibile lunedì, lunedì solo. No, va bene. Sì, allora ci vediamo lunedì 14. No, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ma io potrei proporre a quelli della torre di fare un appuntamento là che io considero anche come lezione, cioè che entra nel flusso del corso per lunedì 14 alle ore 12. Quindi io alle 12 prevedo che là facciamo una lezione che avrà un carattere particolarmente riassuntivo, ovviamente, siccome lì magari c'è gente che non ha sentito niente. Io cerco di fare una cosa sintetica in cui tutti gli argomenti dei quali stiamo parlando. Torre Galfa, sì. Ah, ecco, l'avevo procurato anche io. Va bene. E quindi lunedì prossimo, lunedì 14 alle ore 12, ci vediamo alla Torre Galfa. E facciamo una lezione che ha un carattere un po' particolare, nel senso che invece che entrare nei dettagli dei vari aspetti, cerco di dare il senso generale delle cose di cui stiamo parlando per un pubblico che può esserci o non esserci. 12-16? Dalle 12, sì, 16, 15, insomma, più realisticamente, comunque in queste ore qua, glielo propongo, poi domani vi confermo e chi ne avrà voglia. Domani mezzogiorno? Sì, domani ci vediamo a mezzogiorno. Ecco, torno alla scaletta che vi ho mandato, evidentemente non a tutti perché qualcuno non l'ha ricevuta ma la riceverà. Ecco, vedo che c'è un altro indirizzo, Elisabetta Persano, chi è? Ah, ecco, Questo è un indirizzo in più, poi c'è quello di Zu, quello di Leonora e quello tuo, magari se me lo scrivi qui così dopo. Professore, adesso lei ha mandato, leggo con i vari giorni ed orari, quasi tutti sono segnati dalle 11 alle 16. Resta 11-16 oppure? No, 12-16, io alle 11, se vi dico le 11 vi faccio aspettare mezz'ora perché il mio aereo, sì, il mio treno arriva. Io ho un treno che arriva alle 11.40, quindi se non mi voglio svegliare alle 7 della mattina, che preferirei di no, l'ora giusta è mezzogiorno. Quindi no, adesso vi rimando l'orario perché come vediamo sta cambiando di nuovo e ve lo mando con l'indicazione giusta, 12, dalle 12 in poi. Torno alla scaletta dunque. Torno alla scaletta e in questo primo punto, linguaggio e denaro, dopo avere, diciamo, elencato le questioni delle quali ho parlato adesso, ho cercato di parlare, cioè cosa vuol dire semiologia, semiotica, cosa comporta, cosa implica una lettura semiotica del processo di finanziarizzazione. Cos'è il processo di finanziarizzazione da un punto di vista semiotico? Che significa? Come cambia il rapporto fra segno e referente nel passaggio che definiamo finanziarizzazione? In che senso il denaro può essere considerato come una forma linguistica? E poi il passaggio della finanziarizzazione implica una emancipazione del segno dal referente. Questi sono i punti che io ho messo nel primo capitolo, chiamiamo così. Poi gli ultimi due punti, l'ultimo punto, si chiama tappe storiche, fine del regime degli scambi fissi, poi tappe tecnologiche, finanza e sistema digitale, e tappe produttive, trasformazione post-industriale e post-fordista. Allora adesso dico due parole su questo ultimo punto, su cui poi ritorneremo. Naturalmente questa finanziarizzazione di cui ho cercato di parlare, naturalmente accade come evento storico, cioè si colloca all'interno di un divenire del pianeta, dell'economia planetaria, che ha dei passaggi storici, non è semplicemente una questione concettuale che a un tratto uno ha avuto l'idea di dare più importanza alla autovalorizzazione del denaro, non è il risultato di una decisione o di una stranezza, no, è un mutamento certo accompagnato in qualche misura dalla volontà umana, dalla cultura, dalle intenzioni, ma è un mutamento che accade in connessione con una quantità di eventi storici, antropologici e all'interno di un contesto culturale, politico, sociale, che anche abbiamo cercato un po' di analizzare, se vi ricordate nelle lezioni passate, per esempio ho parlato dello spirito protestante della modernità e dello spirito barocco della modernità, per vedere come la mente collettiva, le forme di vita, le forme di mentalità si adeguano bene o male al capitalismo e poi seguono l'evoluzione finanziaria. Insomma, c'è un contesto infinitamente complesso naturalmente, non possiamo pensare di coglierne tutti i passaggi, però cerchiamo di coglierne alcuni, cerchiamo di cogliere alcuni dei grandi eventi, delle grandi trasformazioni storiche che accompagnano la finanziarizzazione, che la rendono possibile. Allora, io qui elenco tre aspetti generali, tre caratteristiche. Io comincerei da quella tecnologica, a cui comunque a un certo punto dedicheremo un'attenzione specifica, perché è quella che ha una maggiore attinenza con la sociologia della comunicazione, che modestamente dovrebbe essere il nostro oggetto di interesse. Comincio da questa. Noi non possiamo capire la finanziarizzazione di cui ho parlato prima, cioè questo evento, questo mutamento grazie al quale, grazie si fa per dire, questo mutamento a causa del quale il denaro, segno linguistico, acquista una potenza di autoriproduzione tale da evacuare o mettere da parte il referente, la produzione. C'è un passaggio tecnologico e comunicativo indispensabile perché questo accada. Questo passaggio lo possiamo identificare senz'altro con la trasformazione delle tecnologie di comunicazione in senso digitale e con la creazione della rete digitale su scala globale. Come dicevo, questo è un argomento sul quale ritorneremo, anzi direi che qui nella mia scaletta è l'ultimo, finanza e rete, l'ultimo punto che io mi propongo di esaminare si chiama proprio finanza e rete. Quindi ritorneremo su questo argomento, ma adesso cerco di dire solo due cose introduttive. Come è possibile per la finanza acquisire una funzione così decisiva all'interno del processo economico? Questo, per capire questo, noi dobbiamo tenere conto del fatto che nel corso degli ultimi 30 anni, degli ultimi 20 in modo più particolare, cioè gli anni di diffusione della rete telematica globale, nel corso di questi decenni i processi reali e i processi linguistici si sono sempre più intrecciati. La rete è essenzialmente una macchina linguistica. Cos'è la rete? La rete è una condizione tecnologica che rende possibile ad ogni agente linguistico di interagire con ogni altro agente linguistico sulla faccia del pianeta. Uso l'espressione agente linguistico per intendere un essere umano in quanto soggetto capace di produrre e di scambiare segni linguistici. Dunque, la rete è prima di tutto una macchina linguistica. Però sappiamo che per effetto di diversi eventi, di diverse trasformazioni, questa macchina linguistica diventa sempre di più una macchina economica. Perché? Beh, prima di tutto perché il linguaggio è utile nell'economia. Se io ti dico vammi a comprare due etti di pane, il mio atto di linguaggio si trasforma nel fatto che tu vai dal fornaio, se sei cortese, mi porti due etti di pane. E dunque la possibilità di dire in internet mi serve un elicottero, permette ad un produttore di elicotteri che sta in Brasile di mandarmi l'elicottero in cambio di denaro. Ma questo è molto poco, questo è semplicemente un perfezionamento delle tecniche della posta, diciamo così, no? Contemporaneamente si verifica un altro, questo è, diciamo, l'ampliamento, l'espansione di una tecnica di comunicazione normale attraverso il metodo elettronico. Ma quello che accade negli ultimi decenni del XX secolo è anche il fatto che prodotti semiotici, linguistici, immaginari, immateriali, culturali, linguistici, stilistici, informatici, finanziari, dunque immateriali, perché un prodotto culturale, un libro, può essere trasferito in forma di segni. Un prodotto immateriale, un programma informatico, è composto di segni. Un prodotto immateriale, come una moda, uno stile di vita, un modo di disegnare le camicette, può essere trasferito attraverso dei segni. Un prodotto finanziario è essenzialmente un prodotto fatto di segni. Dunque vedete che una quantità di beni, perché i libri e le camicette, o il disegno, il design della camicetta, sono dei beni consumabili, ma immateriali. L'immateriale viene, i beni immateriali vengono ad acquistare un peso sempre più rilevante all'interno dello scambio economico. Immateriale è un prodotto che svolge una funzione, che ha una utilità, che può avere un'utilità, ma che non si condensa necessariamente in nulla di materiale. Un programma informatico è utile, può essere utilissimo, ma non è un oggetto, è una informazione. Allo stesso modo una canzone che noi possiamo è un'informazione, allo stesso modo è un'informazione un prodotto finanziario. E allo stesso modo è un'informazione, anche un algoritmo che mi permetta di produrre delle automobili materiali, quelle, le automobili sono materiali, ma all'interno della rete globale il produrre un oggetto di ferro che si chiama automobile è secondario rispetto a disporre di un algoritmo, di una striscia di informazione che contiene tutti i passaggi necessari perché l'automobile venga fuori dalla macchina che lo produce. Voi sapete che una delle conseguenze dell'informatizzazione è che un numero crescente di operazioni materiali vengono trasferite nell'immateriale. Un tempo ci volevano 5 operai per fare un'automobile, oggi ne basta uno. Tra il 68 e l'inizio degli anni 2000 la produttività nell'industria dell'auto si è moltiplicata per 5 volte, che vuol dire che le stesse automobili che venivano prodotte da 5 persone basta una per produrla, tant'è vero che la Fiat aveva 120.000 operai negli anni 60, ne ha 22.000 oggi. E cosa comporta questo? Prima di tutto comporta lo spostamento della produzione anche di beni materiali in strisce di informazione immateriale. Allora, questo cosa vuol dire? Questa è la premessa di ciò che chiamiamo globalizzazione, perché la globalizzazione è essenzialmente il fatto che un processo di produzione può avvenire indipendentemente dal luogo in cui esso si verifica e anche dal tempo in cui esso si verifica. Perché? Perché c'è una macchina che ricombina tutto. Cioè tu fai fare il design a Singapore, il progetto relativo all'alimentazione a Brasilia, il collaudo virtuale a Milano e poi produci la macchina da un'altra parte. E la macchina linguistica, internet, la rete, rende possibile il coordinamento, la sincronizzazione di operazioni compiute in luoghi diversi del tempo e dello spazio. Ora, questo significa che il processo di produzione diviene sempre di più un processo di tipo linguistico. Naturalmente ci sono anche settori, sezioni del processo produttivo che richiedono materiale fisico e attività umana fisica, ma questa porzione diventa sempre più ristretta nella produzione globale di valore dal punto di vista dell'accumulazione e dell'espansione reale, globale di valore. È il processo che definiamo immaterializzazione. Immaterializzazione significa poi, in ultima analisi, trasformazione dei processi materiali in algoritmi. L'algoritmo, sapete cos'è? È una successione di segni matematici che virtualizzano dei processi reali. L'algoritmo è una successione di segni, ciascuno dei quali allude ad una implementazione nel mondo reale e attiva una implementazione nel mondo reale. Dunque, l'algoritmo è, diciamo così, la dimensione virtuale di ciò che poi viene materializzato attraverso dei processi fisici. E ecco, sempre di più la produzione di valore coincide con lo scambio di segni, con delle produzioni di tipo informazionale. L'informazione muove a questo punto la produzione concreta, dove la parola informazione qui non vuole dire le notizie che compaiono sui giornali, ma uso qui l'espressione informazione in senso proprio, in senso originario, cioè l'informazione è una successione di segni che contiene in sé che contiene in sé la forma del mondo. Informazione è ciò che mette in forma all'interno del mondo. E dunque l'informazione è uno stato dell'essere da cui abbiamo tolto la dimensione fisica. Tutto qua. L'informazione è l'essere, la realtà sgravata, liberata, emancipata dal peso materiale, eventuale, concreto, terreno, fisico della forma. Ecco dunque che l'informazione diventa il bene per eccellenza e dunque ben si presta ad essere trattata linguisticamente. Sempre di più allora la rete, la macchina linguistica che chiamiamo internet, manipola linguaggio, ma nel manipolare linguaggio, nel assemblare, suddividere, distribuire, inviare, ricevere, ricombinare segni linguistici, sta effettivamente ricombinando beni o valore. Ecco allora che finanza ed economia tendono ad avvicinarsi e a coincidere, non solo per effetto di una decisione politica o finanziaria, ma perché le tecnologie dell'immateriale creano le condizioni perché il processo di finanziarizzazione, cioè di linguistizzazione della produzione, o anche, se vogliamo, di evacuazione del referente fisico, divenga possibile. Non dobbiamo dimenticare un altro aspetto più semplice da capire, più banale, ma importantissimo. e cioè che la rete globale rende possibile una globalizzazione dei mercati finanziari. Cosa vuol dire globalizzazione dei mercati finanziari? Beh, tanto vuol dire che noi sappiamo in tempo reale come sta andando la borsa di Tokyo, il che per uno che voglia investire nella borsa di Milano è interessante, invece di dover telefonare, aspettare e così via. Però in fondo poi le borse hanno sempre sviluppato delle tecniche per accelerare l'informazione da questo punto di vista. Internet accelera la circolazione dell'informazione, ma fa un'altra cosa straordinaria, che è poi quella decisiva per la massificazione del mercato finanziario: rende possibile la partecipazione al mercato finanziario per i non specialisti. Perché prima, fino a 30 anni fa, se voi volevate comprare delle azioni della Sony, dovevate andare alla Borsa di Milano, investire il vostro tempo, le vostre competenze, non erano cose che chiunque sapesse fare. Inoltre bisogna vedere, la Borsa di Milano è quotata, la Sony sì, no, altrimenti dovete andare magari alla Borsa di Tokyo, se volete, o di Seul, non so bene quale. Ora, internet rende possibile una cosa che si chiama net trading, che è, fino dai primi anni di sviluppo di internet, fino dai primi anni 90, è uno dei servizi online più importanti, sia per lo sviluppo della rete, sia per lo sviluppo della finanza. Cos'è il net trading? Il net trading è la creazione di una serie di accessi molto facilitati e molto, diciamo così, accompagnati da informazione, servizi e così via, perché chiunque disponga di somme di denaro grandi o piccole possa acquistare azioni, possa intervenire come azionista sul mercato finanziario. Questo vuole dire che da un certo momento in poi abbiamo una esplosione dei mercati finanziari. Perché? Perché milioni e milioni di pensionati che non hanno nulla da fare, o di ragionieri che sono convinti di saperci fare, o di persone di casalinghe e di chiunque, insomma, abbia un minimo di competenza, può investire i suoi risparmi e acquistare azioni di aziende le più lontane. Si massifica così il mercato finanziario, ma non basta. In contemporanea succede che una serie di agenti economici che fino a quel momento avevano investito i loro soldi in banca, diciamo così, come ad esempio i fondi pensione, decidono di investire i loro danari non più in una forma puramente di risparmio, ma di investirli nel mercato finanziario. Cos'è un fondo pensione? Prendiamo i boscaioli canadesi. I boscaioli canadesi, i famosi lumberjack, quei bei giovanottoni che sanno cavarsela con l'ascia e col martello, hanno un sindacato, un fondo comune per il loro pensionamento. Parlo dei lumberjack canadesi a ragion veduta, poi vedrete perché. Sono, mi pare, 14.000 giovanottoni che decidono di investire i loro soldi in un'azienda che si chiama Enron. L'azienda va benissimo nel corso degli anni 90 e quindi tutti i contributi pensionistici dei poveri giovanottoni canadesi vanno a finanziare la Enron. La Enron cresce e i nostri lumberjack si illudono di avere enormi pensioni, cresce fino a quando nella primavera del 2000, in seguito al crollo dell'economia virtuale, delle dot-com e così via, la Enron fa un crack colossale. Il risultato è che da oggi a domani i boscaioli canadesi si ritrovano senza pensione. Questo è successo ai boscaioli canadesi nel 2000, ma negli ultimi 10 anni coloro che si sono ritrovati senza pensione sono un numero straordinario in giro per il mondo. Perché? Perché in molti paesi del mondo, meno in Italia, perché noi siamo, grazie al cielo, un po' pigri e non abbiamo voglia di rischiare, ma forse siete troppo giovani per ricordarvene, ma qualche anno fa ci fu una campagna martellante dei media che dicevano: smettetela di essere così pigri, invece di investire nell'INPS investite nei fondi privati, nei fondi di investimento privato, così diventerete ricchi. Perché mettetevi i vostri soldi, le aziende in cui investite cresceranno e alla fine, invece di avere una miserabile pensioncina di 1000 euro, chissà che benissimo, molti l'hanno fatto, in Italia pochi hanno obbedito ai suggerimenti che venivano da tutto il ceto politico, a destra e a sinistra all'unisono ci invitavano a investire le nostre pensioni. Nel mondo molti lo hanno fatto e siccome le aziende su cui avevano puntato i loro finanziamenti in buona parte sono fallite, le pensioni non gliele paga più nessuno. Poi naturalmente lì ci sono assicurazioni che intervengono in alcuni casi a salvare parte delle pensioni perdute e così via, ma quando le assicurazioni saranno a tal punto saturate dai fallimenti delle aziende, falliranno anche le assicurazioni. Questa è una delle conseguenze dell'espandersi della crisi finanziaria. Bene, torno al mio punto. Nel corso degli ultimi decenni, particolarmente degli ultimi 2 decenni, il fenomeno tecnologico e comunicativo che noi definiamo internet ha reso possibile la proliferazione di processi di finanziarizzazione che vanno dalla globalizzazione dei fondi pensionistici alla partecipazione di massa al net trading, all'investimento finanziario in rete, alla possibilità di investire indipendentemente dalla tua collocazione nel tempo e nello spazio. Ecco, questo, come capite bene, è uno, non è che uno dei tanti aspetti di internet, questo non definisce internet, è una delle modificazioni che internet ha reso possibile. Io poi qui sto usando l'espressione internet e sbaglio, perché dovrei dire la rete. Internet è la manifestazione della rete così come si determina a partire dal 1992 con la diffusione del World Wide Web, dei browser di navigazione nel World Wide Web. Quello prende nome di internet, ma il modello concettuale della rete preesiste naturalmente a internet e gli sopravviverà, però nel momento in cui il modello di rete, cioè un modello nel quale ogni agente comunicativo si trova in posizione di parità con ogni altro agente comunicativo sul piano tecnico e comunicativo, e ogni agente di senso può scambiare senza passare attraverso nessun centro con qualsiasi altro punto della rete, ecco, questo modello, che è un modello astratto, che noi di rete ne parlavamo prima che esistesse internet naturalmente, però parlavamo di un modello astratto, quel modello astratto è diventato concreto nel momento in cui, grazie allo sviluppo del sistema digitale, grazie alla creazione del sistema di indicizzazione chiamato World Wide Web, grazie a una serie di modifiche della rete elettrica ed elettronica e telefonica mondiale, prac, quel concetto è diventato una cosa alla quale ciascuno che sia dotato di un computer e di una linea telefonica può avere accesso. Ecco, quella concreta realizzazione del modello della rete ha reso possibile un processo di integrazione crescente fra dimensione linguistica della produzione, perché internet è una macchina di scambio di segni. Voi in internet non potete mandare un panino con la mortadella al vostro amico che sta a Reggio Calabria, e gli potete mandare un algoritmo attraverso il quale il vostro amico che sta a Reggio Calabria si fa una mortadella, come dice Beppe Grillo, che non sempre sbaglia. E smettete di scambiarvi biscotti tra il Canada e la Birmania, mandatevi le ricette. Ecco, questo, quella, sapete che alcuni fanno la battaglia per il chilometro zero, perché i prodotti alimentari non vengano più trasportati da una parte all'altra del mondo, ma perché si consumino solo i prodotti che stanno in loco, risparmiando petrolio, inquinamento e spese inutili. È un'idea che credo sia molto ragionevole, ma si può aggiungere, questo non vuole dire che tu che stai a Carugate sei costretto a mangiare solamente il risotto alla milanese, basta che ti fai mandare dal Sudafrica la ricetta del buonissimo biscotto sudafricano, e a quel punto con i mezzi di cui disponi ti farai un biscotto più o meno simile. Questo è l'algoritmo. L'algoritmo è la ricetta è l'algoritmo. Ecco che così abbiamo modo di spiegare anche quella parola difficile. Ecco, nel momento in cui noi disponiamo di internet, in quel momento lo scambio di ricette diventa un fenomeno economicamente decisivo. Cioè l'immateriale, perché la ricetta non si mangia, è immateriale, ma l'immateriale diventa il vero prodotto valorizzante. E dunque, scambiandoci ricette, noi paghiamo per la ricetta, non per quello che ci dobbiamo mettere dentro, che è poca cosa. Il valore sta nella ricetta. Allora voi capite che nel momento in cui il valore economico dipende dall'informazione, l'informazione diviene sempre di più il centro del processo di scambio, di produzione e di scambio. E l'informazione è fatta della stessa materia di cui sono fatti i segni finanziari. Cioè, come dicevamo fin dall'inizio, puro flatus voci, pura emissione di segni. Non c'è nulla nella ricetta, solo le parole che mi ha detto la nonna. E non c'è nulla in una banconota da $1,000, solo quello che un signore che fa per caso il presidente della Federal Reserve ha detto: credi che questo equivale a questo e quello. Nulla corrisponde, prego, abbiamo finito. Nulla corrisponde alla ricetta come nulla corrisponde a $1,000, se non l'intenzione, la fiducia, l'attesa, la disponibilità, delle caratteristiche puramente immateriali che rendono però quella cosa, la parola e il denaro, infinitamente potente, capace di produrre tutti i biscotti di cui abbiamo voglia, è capace di comprare tutti i biscotti di cui abbiamo voglia. Ma così voi capite perché grazie a internet diventa possibile la finanziarizzazione. Per tante ragioni: perché crea il mercato finanziario di massa, perché permette il net trading, perché permette la globalizzazione dei mercati, ma anche perché attraverso la digitalizzazione e quindi la trasformazione delle cose in informazioni, dei processi in algoritmi, attraverso quella cosa lì, quella digitalizzazione, diventa possibile una assimilazione dei processi immateriali di tipo finanziario con i processi immateriali di produzione di beni puramente informativi, informazionali. Io avrei finito qui per oggi. Ricapitolo, voi avete ricevuto o riceverete una scaletta, ammesso che mi abbiate dato il vostro indirizzo elettronico. Dopodiché ricevete questa scaletta e vedete un po' come io ho cercato di ricomporre gli argomenti di cui abbiamo parlato. Oggi abbiamo riparlato del primo punto, linguaggio e denaro. Come vedete, le cose che ho detto oggi, chi mi ha seguito un poco sa che le avevo già dette, sto ripetendomi e mi ripeterò, continuo a ripetermi, ma cerco un poco anche di vedere diversi argomenti. Andate a vedervi questi quattro punti che ho messo nella scaletta: linguaggio e denaro, astrazione, pragmatica ed economia, finanza e rete. Noi continueremo a svolgere questi quattro punti. Domani ci vediamo a mezzogiorno e parleremo forse di astrazione. Poi, la settimana prossima, se non ci sarà.